24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati 24 mattino, concludiamo questa settimana in diretta fino alle 9 il nostro sondaggio. Oggi parliamo di caccia. Ebbene sì, perché il ministro Brambilla continua nella sua battaglia contro la caccia da animalista convinta, dicendo abbiamo raccolto oltre 100.000 firme, la caccia va abolita, è un privilegio per pochi, e c'è anche un sommovimento, una protesta all'interno dello stesso partito a dire basta, non parli di cose che non sono nei programmi, ma attengono più a proprio magari alle sue attitudini caratteriali personali da animalista convinta. La caccia, secondo voi, è una posizione giusta quella del ministro Brambilla che dice va abolita? Ne parleremo alle 8:30 ed ora, come di consueto, i giornali in edicola. In primo piano. Detto che in edicola non troverete il Corriere della Sera e non lo troverete neppure domani, due giorni di sciopero proclamati dai giornalisti del Corriere della Sera contro un nuovo piano editoriale del direttore Ferruccio De Bortoli, dunque non ci sarà il Corriere nella rassegna stampa nostra di oggi. Vediamo qualche titolo di apertura. Deficit irlandese alle stelle, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, perché preoccupa davvero il nuovo fronte della crisi economico-finanziaria, vale a dire l'Irlanda. E mentre ci si orienta sulla politica un po' negli altri giornali, governo, la crisi si allontana per la Stampa, Berlusconi show, ho salvato il mondo per Repubblica. C'è chi sceglie Schifani, indagine di mafia, questo è il Fatto Quotidiano, è una polemica che vedremo. E poi c'è Libero e Il Giornale, hanno lo stesso titolo, l'abbiamo sentito nel GR, attentato a Belpietro. Questo sia per Libero, di cui Belpietro è il direttore, sia per il Giornale. Io vorrei in questa anticipazione di rassegna stampa cominciare a leggere i giornali da due segnalazioni che voglio segnalare dalla Stampa e dal Giornale. Riguardano guai giudiziari per due persone. Sono la prima Gaucci e la seconda Fabrizio Corona. Il giallo dei 600.000 euro a Gaucci, pagina 9 della Stampa, e Paolo Colonnello, che racconta di poco più di 600.000 euro versati in pochi mesi, in decine di rate, in contanti, con versamenti sempre al di sotto della soglia di attenzione per l'antiriciclaggio. Questa è la nuova accusa per l'ex patron del Perugia Calcio, Luciano Gaucci, tornato alla ribalta negli ultimi mesi per la querela con Elisabetta Tugliani, ora finito sul registro degli indagati con l'ipotesi di riciclaggio per avere ricevuto tra la fine del 2009 e il febbraio-marzo di quest'anno un'imponente cifra senza apparente motivo. Secondo il magistrato PM Paolo Ielo, in forza al Dipartimento Reati contro la Pubblica Amministrazione, Gaucci avrebbe ottenuto una consulenza da Guglielmo Franci del gruppo Franci SRL di 600.000 euro per prestazioni di consulenze professionali, ma si chiede al magistrato di che tipo, visto che Gaucci ufficialmente all'epoca risiedeva a Santo Domingo. Il giallo dei 600.000 euro a Gaucci, indagato per riciclaggio. Guai anche per Fabrizio Corona. Per la verità si può dire che non passa giorno nel quale Fabrizio Corona non venga descritto come nei guai, tra virgolette. Pagina 14 del Giornale, le relazioni pericolose di Corona con la mala vita. Luca Fazzo ed Enrico Lagattolla spiegano di quel giorno in cui Fabrizio Corona ebbe paura. Il giorno in cui quel guascone irriducibile, lo spaccone abituato a fare il duro anche davanti alle manette, sentì un brivido corrergli giù per la schiena e salì su un aereo destinazione Calabria con una borsa piena di soldi per ripianare in contanti il debito contratto con personaggi che a torto o a ragione gli toglievano il sonno. C'è anche questo nella indagine sul crack del re dei paparazzi e della sua agenzia Coronas, secondo il Giornale, e cioè non c'è solo la vicenda della presunta love story con Lele Mora, ma c'è anche la storia di un appartamento che finì attraverso un colletto bianco di Milano da alcuni calabresi a Corona e che Corona pagò con un assegno a vuoto. E allora, quando l'assegno risulta scoperto, I venditori se ne accorgono, scoppia il finimondo. A Corona arrivano richieste sempre più brusche perché tiri fuori soldi, inviti e minacce. Non si arriva, pare, allo scontro fisico, ma Corona, spaventato, alla fine salta su un aereo coi quattrini e va a sistemare tutto. E allora, insomma, la procura vuole indagare anche nei eventuali rapporti tra Corona e la malavita, il dossier sul re dei paparazzi. Lo trovate sul giornale, ma come di consueto ora ci fermiamo, poi partiamo dalla pagina politica. Francamente sta prendendo una piega un po' noiosa, ma tant'è, ripartiamo da qui dopo pubblicità e meteo. In primo piano. E allora venerdì 1 ottobre alle 7.33 minuti, continuiamo nella lettura dei giornali dedicandoci appunto alla politica. Ieri il tema è la notizia del giorno, è certo Berlusconi che ha incassato anche la fiducia al Senato. Come racconta Ugo Magri sulla Stampa, pagina 2, la giornata di Berlusconi, la fiducia bis, questa volta i Fignani non sono decisivi perché sono 174 i sì al governo, 129 i no, anche togliendo i Fignani o gli autonomisti di Lombardo, cioè 13 senatori, si scenderebbe a 161 sì, 142 no, in pratica 19 voti di vantaggio garantito alla Camera Alta. E pare che il clima politico nel giro di 24 ore sia totalmente cambiato. Berlusconi che ha detto i Fignani sono leali, Bossi che chiede scusa ai romani per il Porci e dice forse non è il momento di andare a votare adesso. Tanto che Vittorio Feltri in prima pagina del giornale scrive insomma, ma se è bastato un discorso distensivo del Presidente del Consiglio a sanare i contrasti nel centrodestra, si può sapere di grazia per quale motivo il Cavaliere e Fini non si sono decisi prima a far pace, anziché litigare di brutto per mesi, con scenatacce anche in pubblico? La mia impressione è che in questa vicenda contino di più le parole non dette di quelle dette. Cioè la sensazione, come dire, mentre ieri si diceva al voto ormai è abbastanza chiara questa strada, 24 ore dopo sembra che si sia buttata molta acqua sul fuoco. L'impressione però, sempre dai commentatori, è che sia una sorta di calma apparente. Per esempio, sentite cosa dice Pier Giorgio Stiffoni, che è un senatore della Lega Nord, lo abbiamo avuto anche noi ospite, in un'intervista che fa al Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri che lo intervista, e Stiffoni pare un po' incarnare quello che è il clima che si respira in Senato e alla Camera. Guardi, era scontato. Qui, a parte noi, dice Stiffoni, che è senatore della Lega, a parte noi che siamo pronti anche domani, hanno tutti una paura terribile di andare a votare, anche nel PDL. Ma certo, sono sicuro che molti del PDL voterebbero anche un governo D'Alema pur di far finire la legislatura. Beh, è per senso di responsabilità verso gli elettori. Si dice così? Risponde Stiffoni. Io lo chiamo il senso di responsabilità personale, ma lo sa che da questa legislatura chi va a casa senza aver fatto 5 anni non avrà nulla? Intendendo, immagino, di vitalizio. E di senatori alla prima esperienza ce ne sono parecchi, glielo assicuro. Anche nel vostro gruppo, certo anche da noi, però chi sta con la Lega ha la certezza di essere rieletto. Per gli altri è dura, durissima. Perché noi cresciamo, facciamo politica, non ci occupiamo di gossip. Sa che siamo in Veneto 11 punti avanti al PDL? Sa che significa? Che noi verremo votati, i nostri deputati e senatori, mentre i loro deputati e senatori rischiano, il caso di voto, di rimanere senza posto. E allora Pier Giorgio Stiffoni dice la maggioranza più forte, maggioranza di qui. La verità è che c'è una grande paura di perdere. Troverete quindi resoconti di giornali. La politica ora ritornerà in primo piano, la legge elettorale, il dibattito sulla giustizia, il tema di Fini, che ovviamente martedì dovrebbe rifare il partito nuovo, il legittimo impedimento, l'interim del ministero, le questioni, la legge elettorale in primo piano, ma l'abbiamo già detto. Insomma, io per questo ho detto un pochino rischia di diventare un dibattito un po' noioso, però tant'è, questi sono i temi che sono ovviamente nell'agenda della politica in questi giorni. Tanto che sembra quasi la giornata di ieri, almeno a leggere i giornali, sembra aver catturato l'attenzione soprattutto per alcuni episodi, oserei dire, di colore. Per esempio troverete dappertutto la foto di Silvio Berlusconi che letteralmente si addormenta durante il dibattito al Senato sullo scranno su cui è seduto, e non ci fosse a fianco il ministro Bondi che letteralmente lo prende per il braccio per dire svegliati, cioè, rischia quasi Berlusconi di cadere, si inclina moltissimo sulla sedia e rischia di cadere. Così come troverete molto i resoconti su, tanto che Repubblica ci fa il titolo di apertura di prima pagina, Berlusconi Show, ho salvato il mondo, i resoconti su quello che ha detto ieri Berlusconi, anche per esempio riguardante la crisi finanziaria mondiale. La stampa la chiama così l'autocelebrazione, quando l'amministrazione americana non mosse un dito, questo ha detto ieri Berlusconi al Senato, e lasciò fallire Lehman Brothers, questo signore, cioè lui, andò a Washington e ci restò finché alla fine non arrivarono 700 miliardi di dollari perché le banche americane non fallissero. E infatti Repubblica mette così, ho salvato il mondo. Berlusconi che dice ho salvato le banche americane, e mette tra l'altro in prima pagina, abbastanza impietoso, insomma, la foto in prima pagina troverete di Repubblica, nella posizione centrale, proprio di Berlusconi che si addormenta e Bondi che lo trattiene da un'inclinazione pericolosa sullo scranno. Perché dico la politica si è un po' avvitata e un po' ha preso una piega noiosa? Perché basta leggere anche il Messaggero, il giornale, sui neopartiti che sono nati, cioè Mario Aiello a pagina 4 del Messaggero racconta di quello che è neo-DC, parlamentarismo, Prodite, la Prodite, ve la ricordate, la malattia di cui soffriva secondo Aiello l'incolpevole Prodi, cioè una proliferazione di gruppi e gruppuscoli. Ebbene, ora il Senato e la Camera sono diventati un luogo dove ci sono appunto non solo il PDL, la Lega, il PD, i grandi partiti, ma l'Alleanza di Centro, la DC per le Autonomie, la Destra, il Partito Repubblicano, il Movimento per le Autonomie, Futuro e Libertà e quello di Fini, Noi Sud, e insomma la nascita di nuovi gruppi e gruppuscoli. Per il giornale è ribattezzata così, Volta Gabbana alla Camera 78 in solo due anni, visto che si è parlato molto di parlamentari che hanno cambiato partito in questi ultimi giorni. Secondo Paolo Bracalini il conto è presto fatto, negli ultimi due anni dalle elezioni del 2008 sono 78 i parlamentari che hanno fatto i cambi di casacca, nel titolo definiti Volta Gabbana. Perché sono nati nuovi partiti, appunto l'API di Rutelli, i liberal democratici della Melchiorre, definita una primatista del cambio, quelli di Noi Sud, che è un composto chimico di Movimento per le Autonomie e PD, uniti ai liberali rappresentati dal solo Paolo Guzzanti, che è uscito dal Popolo della Libertà, poi c'è l'Alleanza di Centro, gli azionisti e Alleanza di Centro sono Nucara e la Malfa, l'UDC, l'ADC, che è Pionati uscito dall'UDC, forse anche mi sbaglio, ma sapete, tenere conto non è anche facile. Insomma, il PDL ha iniziato la legislatura con 275 parlamentari, oggi ne ha 236, scrive Bracalini, in previsione anche della fuoriuscita dei Finiani. Il PD partiva da 217, ora è a 205. L'UDC ne ha eletti 35, oggi ne ha 36, ma non è che è perché ne è entrato solo uno, no, perché sono andati via, che ne so, in 5 sono arrivati in 6, cioè il saldo è positivo. Di Pietro invece aveva 29 deputati, ne ha persi per strada 5, oggi ne ha 24, altri sono andati altrove. Insomma, cambi di casacca abbastanza repentini. Chi ha fatto un altro show e che è su tutte le prime pagine dei giornali è ieri Ciarrapico, Giuseppe Ciarrapico. Gianfranco Fini l'ha definito un traditore in Kippah, il copricapo ebraico, uno dei copricapi ebraici. I finiani che non hanno votato la fiducia a Berlusconi, 35 rinnegati con la Kippah. Una frase che ha scatenato le polemiche, una battuta antisemita feroce. dalla quale anche poi Berlusconi ha preso le distanze. Saluti romani, questo è il titolo di apertura del manifesto che mette proprio Giuseppe Ciarrapico, il fascistissimo Ciarrapico, così definito, grande lettore del Cavaliere, che fa questo attacco antisemita a Fini. Fonderà un partito, speriamo che abbia ordinato le kippà. Per lui è un traditore, sinonimo di ebreo. E grandi polemiche ovviamente per questa frase di Ciarrapico in Senato, con anche la comunità ebraica che si erge a dire è una posizione anche incompatibile con la sua carica istituzionale al Senato, con la sua presenza all'interno del partito. Devo dire che anche Berlusconi ha preso le distanze, e però poi uno va a pagina 6 e 7 di Repubblica a leggere un resoconto firmato Marco Bracconi sulla serata che Berlusconi ha passato, la serata di compleanno, il 29, dopo il discorso alla Camera e alla fiducia, e che ci trova? Vabbè, oltre un resoconto di Berlusconi che ha fatto delle solite sparate contro la magistratura, eccolo qui, PM giornali, ma anche barzellette sugli ebrei. Vi voglio raccontare prima del traffico l'ultima che Berlusconi ha raccontato di barzelletta, secondo Repubblica, a pagina 7. Un ebreo racconta a un suo familiare: ai tempi dei campi di sterminio, un nostro connazionale venne da noi e chiese alla nostra famiglia di nasconderlo, e noi lo accogliemmo, lo mettemmo in cantina, lo abbiamo curato, e però gli abbiamo fatto pagare una diaria. E quanto era questa diaria in moneta attuale? 3.000 euro. Al mese? No, no, al giorno. Ah, però! Beh, insomma, siamo ebrei. E poi ha pagato perché aveva i soldi, quindi lasciami in pace. Scusa, un'altra domanda. Tu pensi che glielo dobbiamo dire che Hitler è morto e che la guerra è finita? E poi Berlusconi ha aggiunto: carina, quest'ultima barzelletta sugli ebrei. Il traffico. In primo piano. Schifani indagato per mafia ed è polemica. Lo trovate un po' su tutti i giornali, la rivelazione che in realtà è stata fatta dall'Espresso, inchiesta su Schifani. Io ho l'Espresso sotto mano, un articolo di Lirio Abbate, pagina 42-43. In realtà poi che cosa è successo? Che la Procura Generale di Palermo ha smentito che Renato Schifani sia iscritto nel registro degli indagati, come dice l'Espresso e sostiene l'Espresso, per concorso esterno in associazione mafiosa, perché ci sarebbero delle dichiarazioni del pentito Spatuzza. Spatuzza avrebbe detto che i Graviano, cioè che erano i suoi referenti mafiosi, in passato avevano incontrato l'allora avvocato Schifani. Questo in estrema sintesi è il motivo secondo cui l'Espresso starebbe indagando, per l'Espresso sarebbe indagato Schifani. La smentita della procura di Palermo, il settimanale conferma, il presidente Schifani ha detto: sono delle infamie, io sono un uomo dell'antimafia. Beh, certo, questa però è una polemica politica che trovate ovunque, o meglio giudiziaria, è diventata subito un tema di dibattito politico. Schifani indagato per mafia, ma la procura smentisce, è anche il titolo di apertura di pagina 3 del Fatto Quotidiano, che ci dedica l'apertura di prima pagina con questa frase un po' ambigua: Schifani, indagine di mafia. Leggete come nel titolo, non c'è scritto indagato, indagine di mafia, che è un titolo un po' così, abbastanza vago, ma insomma per richiamare questa vicenda. Io a questo punto però vorrei prendere in mano Libero e Il Giornale, però in realtà il titolo, come detto, di apertura è uguale, ma lo prendo da Libero perché Maurizio Belpietro, che è il direttore di Libero, ebbene, abbiamo sentito anche nel GR nella notte, c'è stato un misterioso episodio, come viene definito in prima pagina su Libero: attentato a Belpietro, tre spari nella notte e il cuore di Milano trasformato in un circo brutto di volanti e di paura. Alle 22.35 di ieri la scorta del direttore di Libero è stata coinvolta in uno scontro a fuoco in pieno centro a Milano, dentro la casa. Belpietro era appena rientrato in famiglia dopo una giornata di lavoro a Roma. Scritto l'editoriale che appare in prima pagina in volo, ha spedito il pezzo in redazione, poi è rientrato a casa. e poco dopo aver messo piede nell'abitazione sono partiti colpi sparati dagli uomini che da giorni ne tutelano la sicurezza. Il direttore viene consigliato dalla scorta, si chiude in casa, parte la telefonata alla redazione, bisogna riaprire il giornale, hanno sparato fuori da casa mia, non ho capito cosa sia successo. Il direttore, secondo la ricostruzione dei fatti per il momento è questa, il direttore entra in casa, apre con le sue chiavi mentre di solito suona ma l'ora tarda lo sconsiglia, saluta la scorta. Il capo scorta, con un cambio di abitudini insolito, per il percorso verso l'auto sceglie le scale anziché l'ascensore e sulle scale, appena girato l'angolo, si imbatte in un uomo che poi viene descritto con un uniforme da finanziere, ma solo nella parte superiore, quasi volesse farsi riconoscere da uno spioncino. Alla vista dell'agente della scorta, l'uomo estrae all'improvviso un'arma, secondo le prime e disordinate testimonianze una pistola simile alle Beretta, tenta di aprire il fuoco, mira alla testa per uccidere, l'arma si inceppa mentre la scorta risponde al fuoco lanciando subito l'allarme. Vengono esplosi 3 colpi, non raggiungono il bersaglio, l'uomo scappa. E da qui ovviamente la caccia all'uomo. Ora, questi sono i dettagli raccontati, i primi resoconti, visto che è successo ieri sera, poi sapete Libero doveva andare anche in stampa, come tutti i giornali, quindi immagino che siano i primi resoconti un po' anche incerti di quello che è avvenuto ieri sera alle 22:35, uomo armato in casa attentato a Belpietro. Questo è il titolo di apertura di Libero e Giornale. Voglio andare al Sole 24 Ore, come detto la crisi finanziaria è in primo piano perché notizie pessime arrivano dall'Irlanda, il deficit irlandese è al 32% del PIL. Si legge a pagina 5 Leonardo Maisano, dilaniata dalle sue banche in una nemesi storica che riduce un lungo boom del precipitare sotto il segno del debito e del mattone. L'Irlanda arriva a sfiorare il 32% di disavanzo pubblico per puntellare un sistema bancario che ormai ha la stessa consistenza di un pozzo senza fondo. Miliardi entrano e miliardi si dissolvono nel tentativo di frenare le sofferenze provocate dalla bolla immobiliare. È una storia che purtroppo si è già vista, il rischio del debito, il salvataggio di una banca, l'Anglo-Irish Bank, per la quale sono necessari 29,3 miliardi di euro, 6,4 in più del previsto. Alla domanda più ovvia, perché non la fate fallire, come si dice in questi casi, viene opposto dalle istituzioni irlandesi, dal governo irlandese, il motto di tutta questa crisi, too big to fail. Cioè troppo grande per fallire, l'Irlanda sarebbe minacciata dall'enormità del collasso, nessun paese potrebbe contemplare il fallimento di un'istituzione del genere, questo ha detto il ministro delle finanze irlandese. Insomma, queste preoccupazioni che per la verità insomma riguardano poi tutto il mondo e che però per esempio il ministro Tremonti, sempre a pagina 3 del Sole 24 Ore, dice non riguardano per altri temi, la questione del patto di stabilità soprattutto, non siamo preoccupati noi in Italia. Un paese che ha un debito pubblico alto, questo è vero, ma anche un enorme attivo e una stabilità finanziaria complessiva. Lo racconta sempre il Sole 24 Ore, ieri Tremonti era all'Ecofin a Bruxelles, Isabella Bufacchi racconta di questa nuova metafora usata da Tremonti per raccontare l'attuale situazione finanziaria. La metafora della giacca con due tasche. Noi in una tasca, è vero, abbiamo un elevato debito pubblico, ma nell'altra abbiamo le case di proprietà, il risparmio, il sistema bancario abbastanza solido, il sistema pensionistico riformato. A proposito di banche, ovviamente trovate molto sul Sole 24 Ore, a pagina 6 per la precisione, del nuovo cambio in Unicredit. Finita l'era Profumo, il consiglio di Unicredit ha scelto Federico Ghizzoni alla carica di amministratore delegato, un giorno di enorme emozione più che di business, lo ha definito, dopo una vita spesa, passata all'interno di Unicredit. Ghizzoni è il nuovo amministratore delegato e tra l'altro c'è anche un interessante articolo di Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore su chi ha vinto e chi ha perso, i protagonisti di tutta questa fase, dal decisionista Dieter Rampel a Paolo Biasi, vale a dire il presidente della fondazione Cari Verona Social per il 4,9%, a Fabrizio Palenzona, ai libici sempre additati come coloro che hanno in qualche modo portato all'uscita di Profumo, chi ha vinto e chi ha perso nella vicenda Unicredit. A questo proposito io concludo, ricordo che con il Sole 24 Ore esce oggi proprio il numero nuovo di 24, molto interessante perché è dedicato, sapete che sono sempre monotematici, questa volta il protagonista è il cibo, cibo in tutte le salse, in tutte le sfaccettature, in tutte le nuove sfide del futuro, non solo quella degli OGM, ma un numero di 24 dedicato al cibo, alle chef star, alle nuove tendenze, alle nuove ovviamente tecniche per la produzione vera e propria del cibo. Ve lo segnalo, 24 con il Sole 24 Ore. Noi ci fermiamo, votate sulla caccia. A proposito di cibo, sulla caccia è da abolire il nostro sondaggio? Ora il GR 24 mattino. L'intervista. Alle 8:23 minuti il protagonista della nostra intervista, lo voglio salutare, è il procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Alberto Cisterna, che saluto. Procuratore, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore, buongiorno a lei. Senta, anche ai nostri microfoni il procuratore generale di Reggio Calabria Di Landro non ha escluso che nelle bombe, ipotesi di bombe messe in procura e anche davanti al suo appartamento ci sia la stessa mano dell'Andrangheta e non ha neanche escluso che il movente possano essere veleni, corvi all'interno della stessa procura. Questo leggiamo oggi sui giornali, un'ipotesi inquietante, no? Beh, un'ipotesi inquietante, certo, e come tutte le ipotesi dovrà essere verificata naturalmente, perché si tratta di un contesto particolarmente serio e grave, sotto gli occhi di tutti, e quindi bisogna prendere atto che le investigazioni stanno procedendo con grande serenità e serietà, credo che sia il dato più tranquillizzante. Senta, perché l'Andrangheta non fa grande notizia, o forse lei mi smentirà, qualche giorno fa c'è stata anche una manifestazione a Reggio Calabria contro l'Andrangheta, non ha ricavato grandissime pagine sui giornali? Bah, perché innanzitutto è finita la stagione delle manifestazioni dell'antimafia, per così dire, puramente urlata e è frutto semplicemente di un sentimento. C'è bisogno probabilmente di una grande riflessione sull'argomento. Io ho l'impressione che si potrebbe anche vincere con una strategia più intensa, più seria, che guardi veramente a dove si sono allocati i grandi interessi delle organizzazioni criminali, piuttosto che svolgere ancora attacchi su un lato militare che non sembra quello, per fortuna, per il momento più pericoloso. Cioè dice gli arresti non bastano, o meglio cosa ci vorrebbe di più? Ma guardi, gli arresti sono indispensabili, certo. E sicuramente sono una cosa, se ci guardiamo indietro segnano una svolta nella storia del paese. Oramai non c'è fatto criminale importante che non vede i suoi autori scoperti. Io penso alla Calabria, all'omicidio Fortunio, alla strage di Duisburg, a queste stesse vicende che anni e anni fa sarebbero rimaste avvolte nelle nebbie dell'incertezza. Adesso ci sono processi, condanne all'ergastolo, accertamenti, quindi siamo sicuramente molto molto avanti. Il problema vero è vincere, non è combattere la mafia. In questo paese la si combatte da 50 anni, tenendo conto di quello che è accaduto nel mondo negli ultimi 50 anni ci sarebbe da fare una riflessione seria su questo argomento. Senta, però quando leggo anche sulla stampa, tornando alla notizia che davo in apertura, che l'avvertimento contro il procuratore generale possa essere stato anche perché aveva allontanato un magistrato all'interno della procura o per screzia all'interno della procura, i corvi evocati, insomma, cioè, sono cose che tornano e ritornano, corsi e ricorsi storici. Ma guardi, non sarebbe l'Andrangheta, non sarebbe la mafia, se fossero semplicemente organizzazioni che si limitassero a fare estorsioni o a trafficare droga le avremmo sconfitte da qualche decennio. Il problema vero è che queste organizzazioni sono alla continua ricerca e spasmodica ricerca di contatti nelle istituzioni, negli uffici, negli apparati della politica, e questo è che le rende forti. Cioè una zona grigia, quella che oramai si chiama la borghesia mafiosa, fatta di interessi non mafiosi ma di interessi collaterali e convergenti con quelli della mafia. Il problema è che le trovano a volte queste... Ma vede, se non le avessero trovate, ripeto, avremmo vinto. Cioè, la storia di questo paese è segnata purtroppo dai traditori, non dai nemici. Fosse il problema dei nemici, li avremmo già sott'occhio. Il problema sono i traditori, quelli che sparano alle spalle. E naturalmente sparare alle spalle vuol dire che non stanno nella trincea di fronte. Senta, c'è anche un'altra notizia che si può leggere oggi sui giornali. Non so se vuole commentare su questo. L'Espresso pubblica in ampio risalto Schifani, presidente del Senato, seconda carica dello Stato, ha iscritto nel registro degli indagati per associazione esterna alla mafia. La Procura Generale di Palermo smentisce questa notizia. E un lettore che legge questa cosa smentita dalla Procura cosa deve pensare? Un lettore che legge questo, soprattutto se questo lettore è un magistrato, naturalmente sta a sentire quello che ha detto il procuratore Messineo, cioè l'unico che sa cosa effettivamente è successo, lo sa in termini di certezza assoluta, ha detto una cosa, siccome non mente avrà detto la verità. Chi può, personalmente credo al procuratore Messineo a ciò che ha detto, poi non, questo non vuol dire non credere al contenuto dell'articolo, il problema è formale, si sta discutendo se ci sia un'iscrizione, meglio del procuratore Messineo nessuno lo può sapere. Quindi insomma voglio dire però guardi, l'iscrizione in questo paese è sempre considerata una sorta di precondanna, in realtà è nata e dovrebbe restare uno strumento di garanzia per l'indagato, altrimenti si corre il rischio che si svolgano anni e anni di indagine senza che decorra mai alcun termine. L'iscrizione serve a far decorrere dei termini che sono a garanzia dell'indagato, questa è la natura dell'iscrizione. Poi le ripeto, se chi ne detiene la facoltà è il procuratore di Palermo, poi i fatti sono i fatti e quelli si accerteranno. Questo non vuol dire che l'articolo sia fasullo, bisognerà vedere se effettivamente quelle dichiarazioni sono state rese in quei termini. Perfetto, io la ringrazio per essere stato con noi, Alberto Cisterna. Niente. Grazie, procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Altrettanto ovviamente, e ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi parliamo del nostro sondaggio di caccia. Ebbene sì, perché si è aperta da qualche giorno la stagione e c'è un ministro molto combattivo, il ministro Brambilla, per la verità non è proprio il suo campo, visto che è ministro del turismo, ma si sa, è un animalista convinta, ha messo in moto la coscienza degli animali, sta raccogliendo centinaia di migliaia di firme, dice contro la caccia, ha creato anche qualche mal di pancia all'interno dello stesso partito, dove alcuni dicono Berlusconi la fermi su questo tema, che non è nel programma elettorale, la caccia non è da demonizzare. Noi vi chiediamo la posizione del ministro Brambilla: la caccia va abolita? Secondo voi è una posizione giusta? Votate su radio24.it oppure se volete 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco 24 mattino. E allora alle 8:35 minuti parliamo di caccia, uno di quei temi che sempre dividono gli italiani, perché il ministro Brambilla continua a attivarsi, è contro la caccia, vuole l'abolizione della caccia, raccoglie firme per abolire la caccia e qualcuno anche all'interno del suo partito si è un po' arrabbiato. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Su radio24.it votate, vi chiediamo, secondo voi la caccia va abolita, come dice il ministro Brambilla. Per ora vi state dividendo, devo dire, il 54% dice di no. Ma continuate a votare, noi ne vogliamo parlare. Intanto con l'onorevole europarlamentare del Popolo della Libertà, Sergio Berlato. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Popolo della Libertà, devo dire, cacciatore anche. Orgogliosamente cacciatore. Orgogliosamente. Cosa caccia? Cos'è la preda che dà più soddisfazione per un cacciatore? Ma ci sono diverse forme di caccia. Io prediligo la caccia alla selvaggina migratoria. Alla selvaggina migratoria. Forse abbiamo già fatto arrabbiare, ma lo saluto. Carlo Consiglio, lo ritrovo, presidente della Lega per l'abolizione della caccia. Buongiorno. Buongiorno. www.abolizionecaccia.it, è giusto il vostro sito? Esatto. Molto, molto informato, in cui ci sono tutte le norme. Allora, io partirei da onorevole Berlato. Lei si è anche arrabbiato, ha preso carta e penna per la verità all'interno del Partito del Popolo della Libertà. Molti hanno scritto al presidente Berlusconi a dire: ma insomma, freni un attimo il ministro Brambilla su questa iniziativa che non è nel programma, che è risponde più a sue convinzioni personali da animalista convinto, insomma. Ma in effetti noi rispettiamo le posizioni personali di tutti. Il PDL è un grande partito all'interno del quale ci possono essere posizioni anche le più differenziate, non io solo, ma tutta la delegazione italiana del Popolo della Libertà presso il Partito Popolare Europeo ha mandato una comunicazione, una lettera al presidente Berlusconi invitandolo ad intervenire nei confronti della ministra Brambilla, che è ministra del turismo, per fare in modo che, fermo restando rispetto per le sue convinzioni personali, non assuma iniziative che non sono nel programma del Popolo della Libertà e che non servono a far altro che a disorientare l'elettorato, e questo, creando delle divisioni. È una questione di programma. Perché però lei ha scritto anche al giornale una lettera dicendo: è una battaglia sbagliata, è una battaglia illiberale quella contro la caccia, è una battaglia anche persa. Guardi, allora partiamo dal presupposto che ogni attività merita rispetto, se esercitata nel rispetto della legge e delle direttive comunitarie. La caccia è un'attività esercitata in tutto il mondo, normata da precise direttive comunitarie e da leggi nazionali e regionali. Noi in Italia abbiamo in assoluto la legge più restrittiva d'Europa. E magari in Italia qualcuno dice che abbiamo la legge più permissiva, così non è, sono rispettabili le opinioni, ma i fatti sono un'altra cosa, e quindi noi vogliamo, seppur nel rispetto delle diverse opinioni, creare le condizioni perché ogni attività possa essere esercitata nel rispetto della legge. Perfetto, vediamo se su questo consiglio finora ci siamo o no. No. No, voglio dire, le posizioni dell'onorevole Berlato sono posizioni che magari lei non condividerà, perché lui dice orgogliosamente cacciatore, però sono posizioni nel rispetto della legge. Certamente no, perché quando dice che abbiamo la legge più restrittiva d'Europa, io gli vorrei ricordare che in Olanda ci sono 6 specie cacciabili, di cui 2 di mammiferi e 4 di uccelli. Vabbè, non mettiamola su, siamo la penultima allora dal punto di vista restrittivo. L'Olanda è un po' più restrittiva di noi, vabbè. Ma lei ne contesta qualche principio di quello che ha detto l'onorevole Berlato? Ma questo sulla legge non ha detto molte altre cose. Io dico che la caccia, sicuramente per quanto riguarda il ministro Brambilla, la caccia sicuramente è un fattore negativo per il turismo. E poi vorrei dire che la caccia in Italia non viene applicata secondo i principi dell'Unione Europea, tant'è vero che l'Italia ha preso 9 condanne a partire del 1985 fino al 2006, nel 2008 l'Unione Europea ha disapplicato una legge regionale della Lombardia e poi oltre a questo possiamo dire... Ma voglio dire, mi dica così, l'onorevole Berlato che è qui, secondo lei, essendo fieramente, orgogliosamente cacciatore nel rispetto della legge, cos'è? Un assassino di animali? Che ne pensa, insomma? Io non so se l'onorevole Berlato, sicuramente gli animali sono esseri sensibili come noi, questo è dimostrato da ricerche scientifiche che hanno tutta la nostra vita emotiva, manca soltanto il linguaggio e una maggiore intelligenza, perciò gli animali soffrono e provano dolore, gioia, vergogna, ira e tutte le possibili sentimenti, quindi andarli ad uccidere soltanto per divertimento mi sembra veramente fuori posto. Fuori posto, onorevole Berlato. Il professor Consiglio esprime delle opinioni che sono rispettabili, però vorrei ricordare il fatto che, tanto per rendere l'idea, c'è un approccio culturale molto diverso tra gli anticaccia e coloro che invece ritengono la caccia come un'attività positiva, uno strumento di gestione del patrimonio faunistico. Vede, per rendere l'idea, l'approccio culturale degli anticaccia è quello mirante a mettere sotto una campana di vetro il patrimonio faunistico, guai a chi lo tocca. Invece chi conosce queste cose sa che il patrimonio faunistico è paragonabile a un albero da frutto, che per continuare a dare frutti rigogliosi deve essere oggetto di continue manutenzioni, deve essere gestito, deve essere irrigato quando serve e deve essere tenuto libero dalle erbe infestanti e deve essere anche potato. Ecco, la caccia, io l'aspettavo la caccia, qui, no? La alla potatura. Non è altro che quella sapiente potatura che viene fatta per garantire che l'albero da frutto possa dare frutti rigogliosi non solo per le presenti generazioni, ma anche per le future. Ma lei dice insomma che i cacciatori, tutti i cacciatori incarnano questo spirito di rispetto, cioè incarniamo questo spirito di lavoriamo per il futuro e quindi facciamo... Questo è lo spirito dei cacciatori, non vorrei che si confondesse poi la posizione dei cacciatori con qualche bracconiere. Sì, qualche disgraziato. Ma i pirati della strada stanno gli automobilisti come i bracconieri stanno i cacciatori, non perché ci sono i pirati della strada tutti gli automobilisti devono essere trattati come dei delinquenti, non perché ci sono alcuni bracconieri che spesso non hanno neanche licenza di caccia, dobbiamo trattare tutti i cacciatori come dei delinquenti. E quindi su questo credo che ci sia un po' di razionalità con la quale affrontare queste questioni. No, ma guardi, molti poi stanno votando su Radio24.it, ci stanno chiamando, anzi voglio sentire già un paio di ascoltatori, 800 24 00 24. Cominciamo da Marco, dalla provincia di Livorno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho 54 anni, 38 di Porto. Quindi ho cominciato da bambino quasi. È un cacciatore, sì, orgogliosamente cacciatore. Anche lei. Ci mancherebbe altro. Rispetto alla natura, rispetto alle piante, rispetto nel modo più conveniente anche gli animali. Come diceva giustamente il signore, ora non mi ricordo, per l'altro. Professor Consiglio della Lega Anticaccia. Com'è? Il professor Consiglio è dell'abolizione della caccia, l'abolizione sì. della caccia. Lei è d'accordo? È un cacciatore, è d'accordo con il Consiglio? Ma io sono non sono d'accordo per l'abolizione, anche perché parlando di economicamente spendiamo dei tantissimi soldi per poter esercitare questa passione. Ho capito. Oltretutto l'Italia è uno dei paesi più penalizzati. Ah, lei va in Spagna. No, ma guardi, lei ha detto tre cose sulle quali Consiglio vorrei coinvolgerla su quello che le tre cose che ha detto il nostro ascoltatore, cioè rispetto alla natura, rispetto agli animali e la caccia è una passione. Cosa contesta lei? Ci si può rispettare la natura, rispettare gli animali e essere cacciatore? Certamente non si può rispettare la natura uccidendo gli animali. Poi che sia una passione, questo lo concedo, però è una passione dannosa, insomma. Per quanto riguarda delle potature... A Berlato, Berlato ci dice... Io vorrei ricordare che tutte le popolazioni animali raggiungono automaticamente un livello che si chiama capacità portante, che dipende dalle risorse disponibili, quindi non c'è bisogno di interventi umani, gli animali si regolano da soli. Si regolano da soli, quindi questa potatura, ha capito onorevole Berlato? Ma ho capito perfettamente, ma è un approccio di chi non conosce queste tematiche. Del resto la dimostrazione l'abbiamo avuta anche in questi giorni, ma anche qualche anno fa, quando per non intervenire attraverso una sapiente potatura, il patrimonio faunistico degli ungulati nell'arco alpino ha avuto un decremento pauroso per effetto di alcune malattie che si sono propagate proprio per l'eccessiva presenza di alcuni animali. E quindi per non prelevarne attraverso la potatura il 10% si è permesso l'espansione, poi provocata l'espansione di una malattia che ne ha provocato la morte del 98%. Allora è giusto che abbiamo questo approccio, quindi non, per non prelevare le quantità in esubero facciamo in modo che ci siano poi situazioni che portano alla decimazione. Su questo ecco ci vuole razionalità, perché altrimenti chi parte dal presupposto che l'albero non va toccato perché tagliandone un ramoscello soffre, crea le condizioni perché muoia anche l'albero, e venga magari soffocato dalle altre. Ripartiamo da qui dopo il traffico, ci siamo buttati nella botanica, parliamo di potatura, ma stiamo parlando di caccia, questo è il nostro tema. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, alle 8:47 minuti, sentiamo che ne pensa Fabio da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dica, Fabio. La mia posizione è questa, io non sono un cacciatore, però non trovo giusto, trovo grave che la sensibilità di una parte della popolazione, piccolo o grande non importa, possa limitare la libertà di un'altra parte di andare a caccia secondo il rispetto della legge. Quindi il cacciatore, quando rispetta la legge, rispetta quello che si prevede in termini di specie cacciabili, periodi di caccia e cose di questo genere, non limita la libertà degli animalisti, mentre gli animalisti, la loro sensibilità vuole limitare la libertà di altri cittadini. Io questo non lo trovo giusto. Va bene, al di là della potabilità, della non potabilità e delle considerazioni di carattere più specifico. Grazie Fabio. Presidente Consiglio, avete sentito, siete una minoranza, io aggiungo secondo l'ascoltatore, rumorosa, che limitate una libertà dei cacciatori di far tutto secondo le norme, secondo le regole. Consiglio. Devono essere delle regole, perché questo è un mondo che deve essere regolato, perché altrimenti succede un'anarchia. Perché voi volete limitare? Le regole possono prevedere anche l'abolizione della caccia, perché la caccia non è un diritto, la caccia è una concessione dello Stato al cacciatore. Queste malattie degli ungulati che sono ricordate dall'onorevole Berlato sono note da tempo. Ecco, però queste malattie a un certo punto scompaiono e poi dopo un certo periodo scompaiono, sia che si facciano abbattimenti, sia che non si facciano. Quindi non c'è bisogno di questo. Questa potatura lei proprio non la vede bene. Maria Teresa, dalla provincia di Vercelli, su questi temi. Buongiorno. Vedete, dica. Buongiorno, sì, l'esempio che ha fatto l'onorevole effettivamente mi ha fatto pensare che questa potatura non è così sapiente. Ne è la prova che comunque molte specie sono molto a rischio, tant'è che per esempio le province fanno interventi per reintroduzione. Quindi diciamo che l'albero è stato potato in un modo già oltre misura, non è più in grado di produrre frutti autonomamente. Dice. Ma lei che ne pensa al di là di questo della caccia in sé? Sì, io sono personalmente contraria, anche personalmente. Se non voglio nascondermi dietro l'ipocrisia della serie. Se sei contrario, allora dovresti anche essere, come dire, vegetariano e non mangiare gli animali che vengono allevati. Perché lei mangia carne tranquillamente? Sì, devo dire di sì, anche se sto cercando di portarmi verso il versante vegetariano. Sta facendo questo percorso. Va bene, la ringrazio Maria Teresa. Voglio andare a Torino da Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Premesso che vorrei capire, perché tutte le volte che si parla di caccia sembra che si parli di fuorilegge, no, poiché noi esercitiamo un'attività nel pieno rispetto delle regole. Io le parlo da Torino, noi abbiamo sicuramente la normativa più restrittiva. Questo non abbiamo già detto, ma perché lei dice sembra che parliamo di fuorilegge? Perché assolutamente veniamo trattati alla stregua di assassini. Ma lei se ne freghi, a me dicono faccio il giornalista, che siete una casta di farabutti, i politici farabutti, cacciatori, assassini, lei lasci perdere. Insomma. E avete la mia solidarietà. Io volevo rafforzare un attimino il concetto dell'onorevole Berlato, perché io su quelle montagne ci caccio. È notorio per chi queste cose le sa e le vive, che alcune popolazioni, e il caso più eclatante è quello dello Stambecco, che è protetto da 150 anni, hanno visto dimezzare la popolazione nelle aree protette, mentre in aree come la Svizzera, dove furono reintrodotti clandestinamente nel 1906, ne vengono ormai prelevati alcune migliaia all'anno e le popolazioni sono sane. Ora, questo non prescinde dal fatto che sulla caccia le regole vadano rispettate, però, cortesemente, tutte le volte che si parla di caccia e ci si dimentica che i cacciatori che girano sul territorio nazionale sono un terzo di quelli che c'erano 30 anni fa, se le starne, le lepri, i fagiani non ci sono più in pianura, non è certo per l'azione dei cacciatori, ma è per le monoculture intensive, per i diserbanti, per le strade e per l'ambiente che è cambiato indubbiamente. Va bene, la ringrazio. Senta, onorevole Berlato, qui la vicenda della potatura, insomma, stanno arrivando anche tantissimi messaggi. Per esempio un biologo naturalista ci chiede, guardi che l'ecologia è una scienza, insomma la sua è una metafora, o dove ha trovato questa teoria lei, onorevole Berlato, della potatura? Semplicemente dall'esperienza di tanti anni. Veda, chi affronta queste questioni a volte lo fa in modo ideologico ed emotivamente condizionato. Noi tentiamo di affrontare queste questioni sulla base di dati tecnico-scientifici che ci permettono di gestire. Vede, in Italia viene vista la caccia come attività negativa, mentre in tutta Europa, ma vorrei dire in tutto il mondo, la caccia non è altro che uno strumento di gestione attraverso il quale si riesce a garantire l'elevazione sia sotto profilo qualitativo che quantitativo del patrimonio faunistico. Quindi, senza che lasciarsi andare a degli slogan o quant'altro, coloro che si professano animali ambientalisti venissero a darci una mano per garantire prima di tutto la difesa dell'ambiente, perché ogni cacciatore sa. Ho capito, ma onorevole, scusi, un animalista venire a dare una mano, cioè per un animalista il fatto, non so, Dacia Maraini è stata nostro ospite qualche giorno fa, cioè l'idea di uccidere un animale, lei può dire anche per il bene, per la potatura, è una cosa inammissibile, no? Inammissibile proprio per principio, non si può neanche sfiorare, toccare neanche un fringuellino, voglio dire. Le ho fatto l'esempio della campana di vetro, no? Quindi l'approccio ideologicamente sbagliato, invece dobbiamo affrontare queste questioni sulla base di riscontri tecnico-scientifici, perché questo è il modo migliore per far sì che questo patrimonio, che non è né dei cacciatori, né degli animalisti, né di nessun altro in particolare, ma è un patrimonio dell'intera collettività, possa essere attraverso la gestione fatta da mani esperte tramandato alle future generazioni in condizioni ancora migliori rispetto alle condizioni che avevano quando ci sono state consegnate dai nostri genitori. Questa è la sfida, e la sfida non si vince con contrapposizioni di natura ideologica. La si vince mettendo insieme gli esperti che possono dare riscontri oggettivi attraverso i quali intervenire. Quindi basta battaglie ideologiche, bisogna creare le condizioni perché chi veramente ha a cuore la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio faunistico si metta attorno al tavolo e lavori insieme senza barricate e divisioni ideologiche. Perfetto, dopodiché le divisioni non si va da nessuna parte. Dopodiché, onorevole, visto che devo chiudere, io all'inizio le ho chiesto, ma sono un po' inesperto perché non ho mai cacciato, la selvaggina migratoria che sarebbe? Cioè, mi faccio un esempio. Lei, ma in particolar modo anatre o altra selvaggina migratoria, ma questa è una mia passione. Sì, certo, ma certo. Mentre altri, ma tutte le forme di caccia meritano pari rispetto. Come meritano pari rispetto tutte le opinioni, anche quelle degli anticaccia. Va sfatato anche questo... questo luogo comune che la maggioranza degli italiani è contro la caccia. Vede, negli ultimi anni si sono tenuti in Italia 19 referendum contro la caccia, due a livello nazionale, ricorderete nel 90 quello abbinato ai pesticidi. E cioè non sono passati. Di questi 19 referendum, gli anticaccia non ne hanno vinto neanche uno. Ma sai che i referendum non si va a votare gli italiani. Ma se fosse vero che la maggioranza degli italiani è contro la caccia, ne avrebbero vinti la metà, ma forse ne avrebbero vinti almeno uno. Ma forse... Invece agli italiani interessa unicamente garantire l'esercizio di queste attività nel rispetto della legge. Ma forse non interessa forse andare a votare sulla caccia agli italiani. Ma a maggior ragione chi dice che la maggioranza degli italiani è contro la caccia deve... confrontarsi con un elemento oggettivo di riscontro. Un recente studio ha dimostrato che il 54% degli italiani è favorevole a caccia e il 31% solo è contrario. Guardi, nel nostro sondaggio, ma devo veramente fermare, nel nostro sondaggio su Radio24.it il 51% però dice no, la brambilla sbaglia, quindi vede, siamo, anche se è un sondaggio molto così spurio, no? Sondiamo un po' cliccando su Radio24.it, quindi il 49% dice sì l'abolizione, il 51% no alla caccia. Comunque mi devo fermare, grazie a entrambi, voglio salutare anche Gaia Romano oggi in redazione e Peter Bescapè in regia, che è alpino come l'onorevole Berlato, l'ho scoperto dalla biografia dell'onorevole Berlato, quindi due alpini oggi, grazie, a lunedì.